Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Satelliti, sesso a pagamento, però fra i lemuri, serpenti giganti, questo in parte sarà Möbius di oggi. Buonasera, benvenuti all'ascolto della nostra trasmissione. Sentiamo quindi i titoli di questa puntata. L'epoca d'oro della craniometria, ovvero se non credete che l'intelligenza c'entri con le dimensioni del cranio, è perché avete la testa piccola. Barbie, carpe e cavedani che cambiano sesso. I maschi diventano femmine a causa dell'inquinamento. Il fenomeno è stato osservato proprio nelle acque del nostro Po. Alla fine del 1700 fece un viaggio negli Stati Uniti per portare delle piante in Lombardia. Era Luigi Castiglioni, geniale naturalista italiano. O si inventa qualcosa di nuovo, o si migliora sensibilmente quello che c'è già. Sono le due strade dell'innovazione. Quale scegliere in tempi di crisi? Il sesso a pagamento non è solo una prerogativa della nostra specie. I lemuri del Madagascar, in particolare le femmine, si fanno conquistare solo dopo aver ricevuto, dal maschio, dei favori in cambio. Goce è in orbita da 96 ore. È un satellite che misurerà con una precisione mai raggiunta l'impatto delle correnti oceaniche sul clima. Un serpente lungo 13 metri con un peso di una tonnellata. Viveva in Colombia 60 milioni di anni fa. Parliamo di Anatole Clotby, la spia che amava martellare gli esplosivi. Cerchiamo di parlarvi con una certa frequenza, Möbius, di storia della scienza. È importante perché per capire la scienza un po' della sua storia è fondamentale conoscerla. Ci fu un tempo, per esempio, e non molto tempo fa, nel quale sulla nostra specie umana la scienza ne raccontava di cose veramente strane. Ed era anche un tempo nel quale con i dati, le misure, si faceva un po' quel che si voleva, a dimostrare che dai numeri, se non si sta attenti, si può tirar fuori quello che si vuole. Ascoltate allora cosa vi racconta Maurizio Meris. Esistono sulla Terra differenti razze umane che abitano zone differenti della sua superficie e questo fatto ci obbliga a ordinarle secondo il loro rango. L'indiano è orgoglioso, coraggioso e indomabile, così diverso dal negro, ossequioso, sottomesso e imitativo, e dal mongolo, infido, falso e codardo. Non è forse questa una prova evidente che razze differenti non possono essere considerate sullo stesso livello? Queste parole furono scritte da Louis Agassiz nel 1850. Non serve molta fantasia per immaginare quale fosse il posto riservato ai bianchi occidentali in questo ipotetico ordinamento gerarchico delle razze. Agassiz era probabilmente il più grande antropologo americano del suo tempo ed era decisamente un moderato, contrario alla schiavitù. È questo il terreno culturale in cui, a partire dal 1859, mette radici la teoria dell'evoluzione di Darwin. E tutta una schiera di anatomisti, antropologi e filosofi, maschi, bianchi ed europei, impegnati a suddividere l'umanità in specie diverse, lasciò il posto a una schiera di anatomisti, antropologi e filosofi, maschi, bianchi ed europei, impegnati a suddividere l'umanità in razze inferiori, medie e superiori. Nel 1864 Carl Vogt, famoso anatomista, scrive: «Per l'apice arrotondato e per il lobo posteriore meno sviluppato, il cervello del negro rassomiglia a quello dei nostri bambini e per la protuberanza del lobo parietale a quello delle nostre femmine». Beh, un vero progressista, dato che 10 anni prima il tedesco Huske spiegava come: «Il cervello del negro possiede un midollo spinale del tipo trovato nei bambini e nelle donne». E oltre a ciò si avvicina al tipo di cervello trovato nelle scimmie antropomorfe superiori. Per fortuna superiori. Beh, queste che ci appaiono oggi grossolane fesserie costituivano allora un corpus di conoscenze, vivacemente discusso ma fondamentalmente condiviso da gran parte dell'intelligenza europea e americana. Non perché la comunità scientifica fosse particolarmente razzista, ma perché il pregiudizio razziale, e questo il punto fondamentale, era un dato di partenza. La schiavitù poteva anche essere un abominio, ma la superiorità della razza, o nella migliore delle ipotesi della cultura bianca, era un dato definitivo, non qualcosa che la scienza dovesse provare, ma al limite solo confermare, ammesso che ce ne fosse bisogno. Inizialmente la teoria fu che le dimensioni del cervello fossero proporzionali all'intelligenza, una cosa molto ragionevole apparentemente, e si fondò sulla misura della capacità cranica, la quale risultava superiore per il maschio bianco europeo. Ma poi si scoprì che i dati non reggevano. In effetti erano stati distorti, eliminando sistematicamente i campioni scomodi, e nei nuovi dati c'erano troppi criminali, esquimesi, negri e mongoli col cranio grosso, e c'erano anche troppe popolazioni bianche col cranio piccolo. Che fare dunque? L'indagine si concentrò sulle più sottili differenze. L'indice cranico, la forma del corpo calloso, o meglio una suddivisione in frontales, parietales e occipitales? Nulla da fare. Ogni volta saltavano fuori eccezioni fastidiose. La donna col cervello più grande mai misurato aveva ammazzato il marito e le altre misure antropometriche avevano prodotto come unico elemento utile di discriminazione la distanza fra ombelico e pene, che risulta maggiore nel bianco. Beh, insomma, un po' pochino. Broca, uno degli scienziati più brillanti, a cui si deve l'individuazione dell'area della corteccia cerebrale in cui risiedono le funzioni del linguaggio, che ancora porta il suo nome, si avventurò allora nella disamina del caso del foramen magnum, il foro sotto il cranio in cui si innesta la colonna vertebrale. Nell'uomo si trova in posizione molto più avanzata che negli altri mammiferi perché è l'unico bipede. Secondo la teoria, un foramen magnum più avanzato era dunque segno di maggior progresso evolutivo, e Broca si preparava a dimostrare, dati alla mano, come questo fosse più avanzato nel bianco. Sfortunatamente, però, le misure dimostrarono esattamente il contrario, e per i criteri esplicitamente accettati, ciò comportava che fosse nero quello superiore. Ma prodigiosamente la teoria cambiò. Dopotutto, questo foramen magnum così avanzato non era segno di superiorità, ma semmai di inferiorità. Esso serviva a bilanciare il fatto che il nero aveva sviluppato una riduzione delle aree frontali del cervello dove risiedono il pensiero e la logica a favore delle aree posteriori, dimora degli istinti e, pensate un po', dell'olfatto. Beh, di fallimento in fallimento, accrocchio dopo accrocchio, la craniometria sarebbe tramontata col sorgere del XX secolo. Il determinismo biologico no, quello avrebbe spostato la propria attenzione sui test di intelligenza. Ma le stravaganti teorie sulla forma e le dimensioni del cranio, dei neri e delle donne e sulla loro presunta inferiorità sarebbero apparse sui manuali scolastici ancora per lungo, lungo tempo. C'è qualcosa che non funziona nel nostro unico grande fiume, il Po, e riguarda i pesci che nelle sue acque vivono. Stanno cambiando sesso, i maschi. Chiara Albicocco vi spiega cosa sta succedendo. Barbi, carpe, cavedani, i pesci che popolano le acque del nostro Po cambiano sesso. Ecco, i maschi diventano femmine, cioè i testicoli si trasformano in ovaie a causa di alcune sostanze inquinanti. Il fenomeno è stato osservato da alcuni ricercatori dell'IRSA, del CNR di Brugherio a Milano, e il lavoro è stato coordinato da Luigi Viganò, che è nostro ospite questa sera. Intanto buonasera Viganò. Buonasera a voi e a tutti gli ascoltatori. Ecco, ci può spiegare che cosa avete osservato in questi pesci che popolano il nostro fiume più importante? Come lei ha anticipato, di fatto abbiamo osservato la presenza di pesanti malformazioni proprio a livello degli organi riproduttivi, e fondamentalmente si trovavano esemplari nelle cui gonadi coesistevano proprio, erano presenti contemporaneamente attributi sia tipici del testicolo che dell'ovario. Ecco, le gonadi sono gli apparati riproduttori. Esattamente. Ok. Esattamente. E questi quindi erano contemporaneamente maschili e femminili, naturalmente con percentuale di alterazioni variabili a seconda degli individui, ma certamente sempre piuttosto pesanti. Senta, in natura, se non sbaglio, esistono dei pesci che presentano questo tipo di alterazioni delle gonadi in maniera naturale, però questo non è il caso, cioè la causa qui è l'inquinamento. Direi proprio di sì, cioè queste, le specie nelle quali abbiamo trovato queste alterazioni effettivamente non hanno fenomeni di inversione sessuale o di ermafroditismo documentati, cioè sono specie assolutamente a sessi separati, per cui la comparsa è senz'altro da attribuirsi a fenomeni di alterazione verosimilmente indotta dagli inquinanti. Viganò, quali sono queste sostanze inquinanti che possono innescare un fenomeno del genere? Ma guardi, le sostanze potenzialmente responsabili di questi effetti sono numerose e anche piuttosto eterogenee. Può aiutare magari una distinzione di questo tipo tra, ad esempio, interferenti di origine naturale e di origine sintetica. Tra i primi di solito sono annoverate le sostanze più potenti, che sono poi gli ormoni, diciamo, dei mammiferi, per capirci, quindi noi inclusi. Noi inclusi, sì. Diciamo anche i nostri scarti organici. Certamente, questi vengono, regolando le nostre funzioni ormonali, di fatto però vengono anche escreti quotidianamente con feci e urine dal nostro metabolismo, per cui attraverso la rete fognaria raggiungono infine i corpi idrici superficiali. Normalmente, come dicevo, queste sono le sostanze più potenti, fortunatamente in numero, diciamo, limitato. Dall'altra parte, quelle sintetiche sono quelle che involontariamente esercitano questo effetto. Mi spiego meglio, sono sostanzialmente prodotte, sintetizzate con scopi i più vari, quindi parliamo di pesticidi, parliamo di ritardanti di fiamma, detergenti industriali, sì, plastificanti, filtri UV, vernici antivegetative per le imbarcazioni, cioè le più disparate, sì. Le accomuna purtroppo la capacità di interferire, quindi di imitare l'azione degli ormoni veri e quindi di interferire col sistema ormonale degli animali. Quindi diciamo che una somma di tutti questi, di queste sostanze, è ovvio che crea un fenomeno così forte. Ecco, decisamente sì, il rischio che tanti piccoli contributi, pur con potenze diverse, riescano davvero a esercitare dei fenomeni, dei processi di malformazione pesanti. Le conseguenze di questo fenomeno sulle popolazioni immagino siano abbastanza gravi. Possono esserlo, sicuramente anche qui c'è ancora molto da capire, nel senso di estensione del problema, gravità dello stesso, quante specie sono coinvolte, sicuramente c'è ancora molto da fare. Ma il rischio potenziale per le specie è certamente importante, assolutamente da prendere in considerazione. Se noi mettiamo in crisi il loro potenziale riproduttivo, quindi alterando gonadi, testicoli, e quindi la qualità alla fine della fiera dei loro prodotti riproduttivi, è ovvio che anche la specie inevitabilmente subisce una penalizzazione più o meno pesante, diventa esposta quindi ad altri aspetti ambientali che altrettanto sono fonte di stress, quindi è un complesso di elementi critici. Quindi a livello ambientale e di biodiversità questo in effetti sembra un vero problema. Ecco, potrebbe essere peggiorato da un'ulteriore conseguenza negativa nel momento in cui andiamo a cibarci di questi pesci, o no? Qui usciamo un po' dal mio campo di competenza, però certo è che gli interferenti endocrini, sembra ormai documentato, agiscono anche a livello di salute umana, vi è grandissima attenzione ormai a livello mondiale per questo tipo di argomenti e senz'altro la via alimentare è una delle più importanti di assunzione, di esposizione a queste sostanze, uomo intendo compreso. D'accordo, allora la ringrazio, le auguro buon lavoro e se ci sono delle novità insomma ci tenga informati. Volentieri, grazie. E buon lavoro anche a voi. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siete pronti? Nel quiz di oggi parleremo di frigoriferi. Dunque, vi sarà capitato tante volte il seguente fatto: aprite lo sportello del freezer, tirate fuori qualcosa, poi subito vi ricordate che c'era altro da estrarre e quindi decidete di riaprire lo sportello. Ed è qui che vi accorgete che lo sportello non si apre, dovete fare molta più forza di prima, molta di più, e quindi a un certo punto riuscite ad aprirlo. Come mai le cose vanno così? Prima possibilità, avete presente quando le cose molto fredde sotto zero sono collose? È un effetto che dipende da uno strato molto sottile di aria gelida che si distende sulle superfici dove in questo caso appoggia la guarnizione dello sportello, si distribuisce questo strato di aria condensata e quando lo aprite una seconda volta ci vuole più forza, ci scriverete colla. Seconda possibilità, è un sottile strato della gomma della guarnizione che per via del cambio violento di temperatura, quella bassa del freezer e quella esterna, si corrompe, uno strato di decimillesimi di centimetro che però si scioglie insomma sostanzialmente e si ha quindi questa collosità, ci scriverete scioglie. Ultima possibilità, quando aprite il freezer un po' dell'aria fredda che c'è dentro se ne esce, ne entra dall'altra di aria, è calda, quest'aria calda occupa più spazio, chiudendo lo sportello l'aria calda rapidamente si raffredda e quindi occupa meno spazio, si crea del vuoto dentro il freezer e allora, essendoci del vuoto, l'aria esterna genera una pressione maggiore e quindi è per questo che lo sportello è più difficile da aprire. Ci scriverete pressione. Dove scriverete? Beh, il numero di SMS è sempre il solito, 349-238-6666. Il libro che si vince questa settimana è Le macchine invisibili di Piero Bianucci, edito da Longanesi. In collaborazione con IBS.it. C'è un istituto di istruzione superiore a indirizzo agrario vicino a Milano, a Limbiate, e la sua preside, Maria Costanza Scarpini, è ospite questa sera. Buonasera Scarpini. Buonasera a tutti gli ascoltatori. Questo suo istituto è collocato in una sede assolutamente singolare. Voi riuscite a fare qualcosa che non è assolutamente frequente, insomma, per le scuole italiane. Che cosa avete? Ma abbiamo la presenza di un'azienda agraria con animali di diverso tipo, le serre, le colture protette, abbiamo orti, abbiamo giardini con collezioni di piante interessanti. A questa vostra attività didattica noi dedicheremo uno spazio fra qualche settimana, perché voi avete un'iniziativa di presentazione, verremo e la descriveremo bene. Invece questa sera vogliamo restare su un nome, Luigi Castiglioni, perché questo vostro istituto si chiama, è dedicato a Luigi Castiglioni, personaggio ben poco noto, ma quanto poco noto anche altrettanto geniale. Invece era un naturalista lombardo di che periodo? Lui è nato nel 1757. E quindi ha svolto la sua attività di ricerca negli anni dell'illuminismo lombardo. Certo. Noi l'abbiamo scoperto grazie ai ragazzi, attraverso un'indagine che stavano facendo sulla nostra villa. Noi siamo collocati in Villa Crivelli. Luigi Castiglioni è stato ospite di Villa Crivelli. Senta, ma questo personaggio ha fatto veramente delle cose notevoli. La cosa credo più importante sia che a un certo momento ha preso su e è andato negli Stati Uniti alla fine del Settecento, no? Certo. Lui innanzitutto, invece di fare il solito tour che tutti gli aristocratici europei facevano, è andato prima a Parigi, ha incontrato Benjamin Franklin, poi da qui si è spostato in Inghilterra per approfondire la sua conoscenza dell'inglese e poi è partito per un viaggio che è durato 3 anni, dal 1784 al 1786. E che cosa cercava lui lì in particolare? Ma guardi, se uno legge la prefazione del libro che poi ha scritto, uno rimane, come dire, stupefatto, perché lui va lì perché è nata una repubblica fatta dai stati diversi che modificherà il destino d'Europa. Quindi vedeva lungo. Vedeva più che lontano, diciamo. Ma non solo, lui era un botanico anche, ed è questo il motivo principale in realtà per cui gli abbiamo intitolato la scuola. E nel suo viaggio va a ricercare piante, alberi, arbusti che potessero trovare collocazioni in Lombardia. E ci è riuscito, cioè ha effettivamente portato alberi che poi ha piantato qua? Certamente, è stato lui che ha introdotto in Lombardia la robinia. A Mozzate, lui aveva un giardino sperimentale, a Mozzate c'era la villa di famiglia, e qui c'è stata la prima coltivazione di robinie della Lombardia. Tutti adesso ne parlano male della robinia, ma all'epoca dobbiamo ragionare sul fatto che la robinia forniva un eccellente legname da ardere. Fu economicamente molto importante questa... Sicuramente, pensiamo che serviva per il riscaldamento e per garantire il primo inizio di attività industriali all'interno della stessa Lombardia. Senta, Castiglione era anche, in questo suo viaggio negli Stati Uniti, studiò anche delle popolazioni, no? Delle etnie. Certo, cioè in realtà lui incontra gli indiani d'America. Perché lui era interessato in modo particolare, tra le altre cose, agli usi che gli indiani d'America facevano delle piante. E non solo, ma all'interno del libro si trovano delle cose curiosissime, in particolare un dizionario italiano cherokese, quindi con gli idiomi delle popolazioni native. Un fatto quindi, assolutamente singolare. Ma veramente. Professoressa Scarpini, il rapporto fra bianchi e indiani in quegli anni in America comincia a diventare critico. Come legge lui, Castiglioni, queste etnie, quelle indiane? Ma lui è fortemente interessato e ha un atteggiamento di grande rispetto verso queste popolazioni, di cui coglie anche la cultura sottostante, tant'è vero che ne descrive poi nella parte finale del libro sui vegetabili, descrive tutti gli usi che loro facevano di queste piante. Abbiamo già visto che Castiglioni è un osservatore dell'America che sta nascendo come grande paese. Ci sono delle altre cose che lui vede in questo nascente paese, appunto? Ma lui è, come dire, colpito da alcuni aspetti che in Europa, come dire, non c'erano. In particolare c'è questa, o meglio, non c'erano più, in particolare si scontra con la presenza della schiavitù, che è un fatto insomma che lo turba profondamente. E nello stesso tempo l'altro aspetto che lui coglie è questa nascente democrazia che è in conflitto con la realtà dell'Europa di quegli anni. Dove in cui non si votava, certo. Certo, in cui non si votava. Mi pare che state preparando un convegno su Castiglioni. Certo, lo stiamo preparando per il 23 maggio 2009 qui nella sede dell'istituto, cioè Villa Crivelli. Sarà dedicato alla pubblicazione dell'Istoria delle piante forestiere, le più importanti per l'uso medico e sociale, che è stato editato da Iacabuc proprio nell'ottobre 2008. Maria Costanza Scarpini, grazie, ci vedremo al convegno allora. La ringrazio ancora e ringrazio tutti gli ascoltatori per l'attenzione. Grazie. In collaborazione con la Fondazione Cotec, un ente che si occupa di analizzare e suggerire strategie per l'innovazione, questa sera nel servizio che state per ascoltare di Barbara Gallavotti affrontiamo un interrogativo cruciale, soprattutto per le piccole imprese. Cosa privilegiare, soprattutto in tempi di crisi? Inventare cose nuove o migliorare le tecnologie esistenti? Ascoltiamo. Le imprese italiane affrontano la sfida dell'innovazione, sempre troppo poco, secondo molti, ma sempre di più, secondo quanto impone la struttura economica mondiale. Cosa possono fare le piccole e medie imprese per migliorare le loro capacità di innovazione? Ne parliamo con Roberto Verganti, esperto di innovazione presso il Politecnico di Milano. Buonasera. Buonasera. Allora, lei si occupa soprattutto di innovazione nelle piccole e medie imprese e per innovazione in questo caso si intende qualcosa in grado di cambiare il proprio modo di fare affari, il cosiddetto business, giusto? Sì, sicuramente. Possiamo individuare due tipi di innovazione. Uno è quello che porta a creare qualcosa che prima non esisteva. Estremizzando e molto semplificando, possiamo ad esempio pensare al primo computer che al suo ingresso nel mercato era qualcosa di completamente nuovo e innovativo. Oppure il secondo tipo di innovazione è quello che porta a inventare un modo nuovo oppure un modo migliore per produrre qualcosa che già esiste. Ad esempio, trovare una via più economica per fabbricare i computer. Allora, dal punto di vista di un'impresa, quale dei due tipi di innovazione secondo lei è preferibile? Direi che è difficile fare una graduatoria e servono entrambe ma con scopi diversi. L'innovazione di secondo tipo, l'innovazione incrementale, che è sostanzialmente fare sempre meglio ciò che già sappiamo fare, serve per la competitività di breve termine e per restare al passo della concorrenza in termini di costo e qualità. Tuttavia pian piano la spinta dell'innovazione incrementale si esaurisce o i mercati esistenti si esauriscono e quindi le cose per quanto ci impegniamo non migliorano più e bisogna cambiare, fare un'innovazione radicale che vuol dire fare cose nuove, prodotti nuovi, business che prima non facevamo e questo serve per aprire nuove opportunità, per creare futuro, permettendo di vincere e di creare nuovi business. E come si fa a fare una cosa di questo tipo? Qual è la carta vincente per fare innovazione? Le indicazioni ce ne sarebbero tante, una importante è non pensare che l'unico modo per fare innovazione è avere un grande laboratorio di ricerca e sviluppo, questo soprattutto per le piccole e medie imprese è importante. L'innovazione si può fare anche con unendo risorse interne a attrarre talenti e lavorare con collaboratori che sono all'esterno dell'impresa. Teniamo conto che per quanto noi ci impegniamo ad avere persone intelligenti all'interno della nostra impresa, il 99% della gente più brillante lavora sicuramente per qualcun altro, per i clienti, per i fornitori, per le università, i centri di ricerca. Allora il punto è come fare leva sulle risorse esterne, mantenendo ovviamente un'esperienza delle capacità interne, altrimenti è difficile assorbire la conoscenza dall'esterno, ma fare leva su tutto questo patrimonio di conoscenze che è all'esterno dell'impresa. Lei mi faceva l'esempio dei laboratori Bell negli Stati Uniti, che sono storicamente uno dei laboratori più grandi al mondo, anche tra quelli impegnati in innovazione. Certo, il laboratorio Bell, come li conoscevamo in passato, che hanno inventato il transistor, per dire, non esistono più, sono stati smembrati, proprio perché si è capito come i grandi laboratori di ricerca cominciano ad avere oltre una certa dimensione dei problemi di produttività. Le grandi imprese quindi si sono mosse per prime a collaborare con gli attori esterni, e questo per quanto deve farci pensare, non è vero che ovviamente la collaborazione con attori esterni implica che le aziende possano rinunciare ad avere risorse interne, devono averle proprio per riuscire a delle risorse specializzate interne, proprio per riuscire a capire con chi dialogare, con chi parlare. In generale sentiamo sempre più spesso esprimere da chi fa ricerca il desiderio di collaborare con l'impresa e viceversa, però alla fin fine sembra che questo matrimonio stenti a decollare. Come mai? Dunque, le collaborazioni nel campo della ricerca sono molto specifiche, richiedono che si trovino dei partner nel mondo della ricerca e nel mondo dell'industria che abbiano gli stessi interessi, le stesse capacità, uno che venda conoscenze, l'altro che abbia i mercati a cui applicare queste conoscenze. E purtroppo finora la lotta che è stata spesso è quella di cercare localmente, di spingere collaborazioni locali, mentre i flussi di conoscenza sono internazionali, quindi le imprese devono sempre di più cercare i migliori ricercatori nel mondo e le università devono cercare sempre di più le migliori imprese internazionali a cui vende la loro conoscenza. C'è da dire che finora le politiche invece hanno sempre stimolato collaborazioni a livello locale che peraltro mortificano la competizione, perché la vera competizione è per chi fa ricerca a livello globale. Lei che ruolo pensa possa avere la ricerca di base? Può essere sostituita in qualche modo da una ricerca focalizzata su collaborazione con impresa da parte dell'università? No, non può essere sostituita assolutamente. La ricerca di base è quella che immagina il futuro, quindi spesso anticipa gli interessi con cui le imprese fanno business, quindi deve essere necessariamente finanziata dal pubblico, purché ovviamente focalizzata sulle eccellenze. C'è da dire che non è un problema di sostituzione, è un problema di coesistenza. Anche la ricerca focalizzata è fondamentale, e anzi non si riesce a fare ricerca di base se non si prova anche poi a sviluppare applicazioni. Le applicazioni servono ovviamente all'industria, ma serve anche a chi fa scienza, perché dà possibilità di avere dei feedback applicativi. Grazie a Roberto Verganti, buonasera. La ringrazio, buonasera. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Sono uscite un sacco di inchieste negli ultimi anni su riviste, anche libri, servizi televisivi pure, indagini che riguardavano il sesso a pagamento. Però, non so se l'avete notato, nessuna fra queste inchieste riguardava i lemuri. Con questo servizio di Chiara Albicocco, Mebius vuole colmare questo vuoto. Il sesso a pagamento, se così vogliamo chiamarlo, non è solo una prerogativa della nostra specie. I lemuri del Madagascar, e in particolare le femmine, si fanno conquistare solo dopo aver ricevuto dal maschio dei favori in cambio. Che tipo di favori pretendono? Ce lo spiega Elisabetta Palagi, coordinatrice del gruppo di ricercatori pisani che ha osservato questo tipo di comportamento nei lemuri del Madagascar. Intanto buonasera Palagi. Salve, buonasera. Quindi quali sono questi nobili servigi che il maschio lemure dovrebbe compiere verso la femmina perché si conceda per l'accoppiamento? Dunque, sostanzialmente i maschi riescono ad ottenere i benefici sessuali, ovviamente di questo si parla, delle femmine, utilizzando due diverse strategie che si susseguono nel tempo, anche se ovviamente il tempo è estremamente ristretto. Durante una prima fase, che serve appunto ai maschi per cercare di accoppiarsi per primi, i maschi, come dire, dimostrano la loro abilità marcando il territorio. Le femmine effettuano uno stretto monitoraggio su questa capacità dei maschi di marcare il territorio. Come marcano il territorio? Utilizzando ghiandole preposte. Con la secrezione di ormoni? Esatto, sono feromoni sostanzialmente, cioè sostanze che vengono liberate per attrarre, appunto, e per comunicare alcune informazioni ai membri dello stesso gruppo, quindi della stessa specie ovviamente. Quindi diciamo, coloro che sono più bravi a disseminare i loro odori nel territorio sono quelli che accedono per primi. Questo però non è sufficiente, perché per assicurarsi un buon successo riproduttivo non basta arrivare primi, ma occorre anche assicurarsi il maggior numero di copule. E certo. Quindi arrivare al maggior numero di accoppiamenti possibili. Quindi cosa fanno? Quindi cosa succede? Succede che poi da un certo punto in poi i maschi devono passare dalle parole ai fatti, per così dire, perché una volta che sono arrivati ad accoppiarsi per la prima volta con la femmina ambita, questa, perché possa concedere ai maschi ulteriori copule, vuole qualcosa in cambio, o comunque così diciamo ci raccontano i dati e le statistiche che abbiamo utilizzato. Ecco, che cosa... La moneta di scambio in questo caso è il grooming. Il grooming è una specie di spulciamento, diciamo quello che appare all'osservatore altro non è che uno spulciamento che viene fatto con il pettine dentario, con le mani, che è una sorta di servizio estremamente importante nei primati, perché esula dalla funzione per la quale probabilmente si è affermato in un primo tempo, cioè la pulizia del pelo. Durante il grooming è stato dimostrato in tantissime specie di primati che vengono liberate delle beta endorfine, che sono delle sostanze che producono piacere. È un po' come quando noi ci sottoponiamo a quei massaggi estremamente rilassanti, no? Delle sorte di carezze, diciamo. Carezze, ma sono, sì, diciamo che è qualcosa di più. Ecco, è un momento intanto estremamente critico per gli animali, perché quando sono intenti in questo tipo a fare questo tipo di comportamento, ad esempio cala la vigilanza contro i predatori, per cui in natura è costoso dal punto di vista del rischio. Quindi un maschio che riesce a dedicare alla femmina un maggior numero di queste attenzioni, se le vogliamo chiamare, può essere considerato dalla femmina un buon maschio. E quindi la capacità che il maschio ha quindi di monopolizzare la femmina e tenerla vicino a sé per tutto il periodo dell'estro femminile, con questo comportamento assicura al maschio una maggiore quantità di accoppiamenti. Benissimo, quindi i maschi che spulciano di più le femmine sono quelli che avranno maggior successo riproduttivo, ho capito bene? Esatto, esatto. Ed abbiamo visto che effettivamente questa specie di servizio segue le fluttuazioni di mercato. Cioè, cosa vuol dire? Ecco, vuol dire che quando siamo al di fuori del periodo degli accoppiamenti, le femmine ripagano, tra virgolette ovviamente, i maschi con la stessa moneta. Durante il periodo dell'accoppiamento avviene tra il maschio che lo fa verso la femmina, mentre nel periodo normale non riproduttivo è uno scambio vicendevole. Esatto, cosa succede? Quando invece la femmina ha qualcosa di più da mettere sul tavolo della trattativa, per così dire, sì, la femmina diminuisce il grooming che fa al maschio, ma, come dire, ricambia il favore sociale del maschio con gli accoppiamenti. C'è una sorta di profondo equilibrio comportamentale e di strategie comportamentali, appunto, tra maschi e femmine, che fluttua in funzione delle regole di mercato. Cioè, ecco, un esempio classico, sì, no, è la frutta fuori stagione, cioè quando noi andiamo al supermercato, sì, e vogliamo le fragole a gennaio o a dicembre, il prezzo aumenta. Perché? Chiaro. Perché l'offerta diminuisce, quindi noi dobbiamo pagare di più per le fragole. Durante invece il mese di maggio, quando la fragola è un frutto di stagione, l'offerta sul mercato aumenta e quindi il prezzo delle fragole diminuisce. Un valore aggiunto della vostra scoperta, che già ci ha spiegato benissimo, è che comunque voi avete studiato i lemuri, che sono dei primati ancestrali che vengono chiamate proscimmie, sì, e invece si pensava che questo tipo di corteggiamento ci fosse soltanto nelle scimmie superiori, nei primati superiori, corretto? Esatto, esatto. Diciamo che, come dire, questo mercato dell'accoppiamento è stato messo in evidenza fino appunto a poco prima del nostro studio soltanto nelle scimmie e nelle grandi antropomorfe, cioè per intenderci macachi, babbuini e scimpanzé, bonobo, gorilla, eccetera. Il fatto di averlo trovato invece in un gruppo più ancestrale dei primati riporta indietro, quindi, e soprattutto svincola questo tipo di comportamento e strategia comportamentale dalle capacità prettamente e puramente cognitive. Cioè non c'è bisogno di avere delle capacità cognitive straordinarie per utilizzare questo tipo di strategia economica. Ecco, questo è il punto forse più importante del nostro studio. Ci tengo a dire che ovviamente, sì, non sono stata sola in questa avventura, ma anzi non sarebbe stato possibile riuscire a ottenere questi risultati se i dottori Ivan Norsch e Daniela Antonacci non avessero lavorato insieme a me. Sì, ecco, specifichiamo che voi siete andati a lavorare in Madagascar, non avete fatto studi in cattività. Ci tornerete presto? Speriamo di sì. Anche purtroppo se la situazione politica del Madagascar ora è precipitata nel giro di 2-3 mesi. Se, diciamo, la situazione si calma, dovremo tornare per un altro ciclo di osservazioni intorno alla fine dell'anno. D'accordo, allora ci tenga informati. Grazie e buon lavoro. Sicuramente, arrivederci. Gigi Donelli, questo satellite è veramente bello, ha una forma eccezionale. Sì, decisamente bello, decisamente insolito, esatto, il colore, infatti, come dire, si è già caricato di nomignoli molto evocativi. Il più classico è la Ferrari dello spazio, l'hanno chiamata. Gigi Donelli è sempre in studio con noi qui a Möbius perché per Radio 24 tu segui tutto ciò che è satelliti, sonde, missioni dello shuttle, insomma spazio, e qui è andato in orbita, è in orbita da poco più di 90 ore, Un satellite veramente unico, si chiama GOCE? Sì, GOCE, che è un acronimo impossibile, in realtà il nome completo è Gravity Field and Steady State Ocean Circulation Explorer, quindi in due parole, campo gravitazionale e analisi dei flussi, quindi nei grandi sistemi oceanici. Allora, dici subito qual è la sua mission, cioè che cosa va a fare? Ecco, la sua mission è di misurare, come non è mai accaduto prima, il campo gravitazionale terrestre. Secondariamente, anche se di fatto il concetto è esattamente lo stesso, ma forse è più chiaro anche per chi ascolta, è misurare il livello del mare. Mm-hmm. Perché forse alcuni nostri ascoltatori sanno che la famosa misura sul livello del mare è una pura convenzione. Certo, cioè spieghiamola meglio, dai. Spieghiamola, dunque, il livello del mare non è assolutamente uguale a se stesso. Esatto. La cosa più, diciamo, esplicita la vediamo nell'Oceano Indiano, dove addirittura c'è una rientranza di fatto della superficie dell'oceano che è di quasi 100 metri. Cioè, se non ci fosse la forza gravitazionale che stabilizza tutto questo, noi avremmo un'onda avremo, di 90 metri avremo di differenza tra onde continue e avremmo e abbiamo comunque una differenza della forza gravitazionale sul nostro pianeta da punto a punto, perché certo, la misura è proprio la forza di attrazione è legata alla massa, e la massa all'interno del pianeta Terra non è uguale a se non stessa. Non è instabile, poi la Terra non è vero che è perfettamente una sfera, insomma, quindi ci sono grosse differenze. GOCE che cosa fa? Monitorizza queste differenze e quindi riesce anche ad analizzare probabilmente dei processi che riguardano i mari e gli oceani. Sì, e qui è proprio la grande chiave, se vogliamo, rivolta al futuro di questi satelliti dell'osservazione della Terra dell'Agenzia Spaziale Europea. Ancora un esempio, quante volte abbiamo sentito parlare di innalzamento degli oceani e dunque di trasformazioni legate ai cambiamenti climatici, ma come possiamo capirli fino in fondo se non abbiamo un riferimento di base? GOCE a me piace, diciamo, immaginarlo come un sarto. È un sarto del nostro pianeta che prende le misure, pensate, fino a un centimetro di dettaglio. Questo è assolutamente impressionante, quindi avremo dei dati con una precisione, come dicevamo all'inizio, effettivamente che non c'è mai stata. La tecnologia che sta dentro questo satellite, per esempio per i sistemi di spinta, è avanzatissima ed è assolutamente unica. Sì, devo dire che è una sequenza di novità, appunto. GOCE innanzitutto è un satellite con le ali, nel senso che contrariamente all'immagine classica, per cui il satellite non ha bisogno di ali o di strumenti di avionica, GOCE invece ne ha bisogno. Volerà particolarmente basso, a circa 260 km d'altezza, dove quindi subirà in parte quello che è la forza dell'atmosfera terrestre, verrà spinto per tutta la durata della sua missione, questo è impressionante, cioè per 20 mesi, da un motore ionico. Ecco, i motori ionici sono questi motori che sono stati utilizzati per mandare delle sonde molto lontano dalla Terra. Hanno un'accelerazione molto lenta, però a un certo momento, siccome questa accelerazione continua, la sonda diventa velocissima. Ma qui com'è che funziona? Mi dicevi nel preparare questa intervista un esempio che riguarda la potenza di questo motore, no? Sì, la potenza è a dir poco delicata. Il motore di GOCE è in grado solo, se vogliamo, di sollevare l'equivalente di un foglio di carta. Però, appunto, come dicevi tu, per mantenere acceso un motore per 20 mesi, noi quanto carburante abbiamo bisogno di portarci dietro? Bene, GOCE di fatto porta l'equivalente di 38 kg di gas, di sostanze gassose compresse che vengono eccitate attraverso l'elettricità raccolta dai suoi pannelli solari. Quindi, se facciamo il conto, insomma, abbiamo un pieno di 2 anni con ben poco carburante. GOCE dovrebbe essere grande come una petroliera. Esatto. Il che vuol dire che riesce a muoversi efficacemente, magari con spostamenti molto lenti, ma è quello che si vuol far fare al satellite. Assolutamente, sarà una specie di delicato surfing ai confini interni dell'atmosfera. Naturalmente, per misurare con tanta precisione il corpo della Terra, GOCE ha bisogno di essere vicino, quindi da lì la ragione di questa misura così bassa. Nello stesso tempo la tendenza in quella fascia dell'atmosfera sarà di riportarlo proprio verso Terra, quindi il suo motore manterrà invece un equilibrio che permetterà dunque di fare il lavoro per i 2 anni previsti. GOCE è tutto europeo? Sì, è una grande impresa anche industriale europea, la parte esterna, la costruzione e l'ottimizzazione del satellite è stata fatta a Torino, peraltro a Thales Alenia Spazio Italia, con Astrium, quindi AIDS, la grande azienda di fatto concorrente della prima, e gli strumenti all'interno di Onera, che è una società francese. Assolutamente un prodotto tecnologico europeo che di fatto rappresenta anche una piattaforma di partenza per i prossimi satelliti di osservazione della Terra. Grazie Gigi, a presto. Grazie a te. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Siamo alla soluzione del quiz. Vi ricordate il quesito? La seconda volta che aprite lo sportello di un freezer dopo averlo già aperto poco prima, l'operazione richiede molta più forza. Come mai? Questa era la domanda. Allora, suggestive le prime due risposte, ma erano false. Non esistono strati sottili di aria condensata fredda e collosa, né ci sono scioglimenti di strati altrettanto sottili della guarnizione. Invece siamo in presenza di un effetto ventosa. Come funzionano quelle ventose che, per esempio, si usano per avere dei piccoli ganci su delle mattonelle? Si premono con forza, l'aria che ci sta sotto esce e l'aria che sta fuori, alla pressione atmosferica in cui noi tutti viviamo, preme sull'esterno della ventosa e la tiene su. Se dentro il freezer si crea un parziale vuoto generato dall'aria calda che si raffredda rapidamente, ecco che si ha un effetto analogo. I ganci a ventosina cadono prima o poi, lo sapete, no? Esatto, perché lentamente dell'aria filtra. Allora, se il vostro freezer non ha più questo effetto che abbiamo appena descritto, vuol dire che la guarnizione sta perdendo la sua capacità isolante. Quanto era grande, Paola? Era lungo 13 metri e doveva pesare più di 1250 kg. Un mostro più lungo di un autobus e che pesava più di un'automobile. Allora, ho raggiunto su Skype Paola Rebusco negli Stati Uniti, che questa volta ci parla. Beh, questa roba lunga così e grande così era un serpente. Esatto, esatto, un serpente, una specie di boa constrictor, il più grande al mondo. Ma non è che è esistente, c'era? C'era, hanno trovato i resti dello scheletro in Colombia e risalgono a 60 milioni di anni fa. 60 milioni di anni fa, chi è che l'ha trovato? Un gruppo di paleontologi canadesi e americani. Però mi pare che la scoperta abbia ricevuto anche gli onori di Nature. Esatto, sì, infatti c'è un articolo su Nature di febbraio che racconta appunto di questa scoperta e delle conseguenze. Tra le cose curiose hanno trovato anche degli scheletri di tartarughe e coccodrilli che probabilmente costituivano il pasto di questo serpentone. Cioè, lì nelle vicinanze dei resti hanno trovato scheletri di tartarughe e coccodrilli? Esatto, e l'hanno ricostruito che erano i resti delle merende del serpente, a quanto pare. Come faceva a mangiarsi delle tartarughe, questo è singolare. Probabilmente i serpenti ce li hanno in generale, ma a maggior ragione una specie di autobus come questo, come hai detto tu, hanno dei succhi gastrici che sono in grado di sciogliere. A quanto pare sì, non è la mia specialità, quindi non saprei. Dunque Paola, mi pare di capire che ci siano anche di altri dati che sono emersi da questa scoperta, interessanti. Sì, effettivamente è utile perché la dimensione degli animali a sangue freddo, come per l'appunto i serpenti, è legata alla temperatura dell'ambiente in cui vivono. Quindi sono riusciti a ricostruire la temperatura media annuale nella zona in cui è stato trovato il serpente, e questa temperatura era di 33 gradi centigradi, cioè 6 gradi in più della media attuale. Certo, e questo per i climatologi può essere interessante. Sappiamo a questo punto che 60 milioni di anni fa lì c'era una differenza di 6 gradi, che non è poco, No, non è poco, e queste ricostruzioni climatiche, come ben detto, oggigiorno sono particolarmente importanti, considerando il riscaldamento globale. Senti Paolo, adesso ti lascio e vado a chiedere a un paleontologo qualcosa su come mai questi animali grandi c'erano una volta e poi mano a mano sono diventati tutti più piccoli. Mi è venuto in mente che dobbiamo provare a dare una spiegazione a questo. Ciao Paola, grazie, alla prossima volta. Ciao, alla prossima, buonasera a tutti. E il paleontologo che ho trovato è Cristiano Dal Sasso. Buonasera Dal Sasso. Buonasera a voi. Allora, come ho detto, paleontologo del Museo di Storia Naturale di Milano. Allora, per quanto sia così, diciamo, un po' grossolana come domanda, però la questione è chiara, cioè come mai da animali molto grandi siamo mano a mano dal punto di vista evoluzionistico arrivati ad animali molto più piccoli? Beh, gli animali di grande taglia, soprattutto i grossi animali terrestri, i grandi mammiferi come quelli che conosciamo oggi, ad esempio elefanti, ippopotami, eccetera, hanno bisogno di grandi spazi a disposizione. E hanno bisogno naturalmente di una grande quantità di cibo, altrimenti non possono permettersi di raggiungere queste taglie. Entrambe le cose si sono ridotte nel corso del tempo, a causa della competizione con altri animali quando ancora non c'eravamo noi, e poi a causa anche della caccia operata dall'uomo quando è comparso Homo sapiens, e a causa della riduzione degli habitat naturali da parte nostra. Forse anche perché dobbiamo ricordare che alcuni grandi animali c'erano ancora quando abbiamo incominciato a esserci noi presenti come specie, infatti. Sì, e abbiamo delle testimonianze del fatto che sono vissuti insieme a noi, per esempio in molte grotte europee ci sono graffiti che raffigurano dei mammut che poi sono stati cacciati dal genere umano. Insomma, quindi una storia interna, cioè in rapporto con l'habitat a un certo momento si viene a creare, come dire, una condizione migliore per animali più piccoli. Sì, gli animali più piccoli sono più adattabili, possono vivere nello stesso luogo in numero maggiore e quindi può anche esserci più diversità genetica. Certo. Questo è il motivo per cui, per esempio, su delle piccole isole del Mediterraneo, relativamente piccole come la Sicilia, Malta, eccetera, sono vissuti degli elefanti però di specie nane in epoche preistoriche. Senta Dal Sasso, invece di questi serpenti, che sono effettivamente degli animali stranissimi, curiosissimi e molto suggestivi, che cos'è che possiamo dire della loro storia? Da dove vengono? Da dove venivano? Da dove vengono? Sì, per molti anni, fino a pochi decenni fa, i paleontologi stessi sono stati molto incerti sull'origine dei serpenti, perché sono rettili molto diversi dagli altri. Pensiamo per esempio semplicemente al fatto che sono completamente privi di zampe. Si pensava che si fossero originati in ambiente terrestre, come tutti i serpenti, la maggior parte dei serpenti che conosciamo ora. In realtà testimonianze fossili meglio studiate a partire da un decennio fa, e qui ci metto anche il nostro museo che ha contribuito a queste ricerche, dimostrano che i più antichi serpenti erano acquatici, o meglio, erano dei varani che si erano adattati a vivere in ambiente marino nella zona attuale corrispondente all'attuale bacino del Mediterraneo, e che pian piano hanno perso le zampe, proprio perché per nuotare non era necessario avere degli arti. Il nuoto anguilliforme è invece molto efficiente in acqua, e per questo motivo ora lo possiamo dimostrare da una serie di ritrovamenti fossili. Ci sono dei varani che riducono sempre di più gli arti, soprattutto quelli anteriori, poi perdendoli, e poi ci sono dei protoserpenti che hanno ancora dei moncherini di arti posteriori. Sono fossili che hanno 90 milioni di anni, quindi questo passaggio evolutivo è avvenuto quando sulle terre emerse c'erano ancora i dinosauri. Ecco, mi scusi Dal Sasso, c'è qualcosa che non capisco, cioè il varano, che è diciamolo semplicemente un lucertolone con delle belle zampe, era però un animale acquatico, perde le zampe perché è una condizione migliore per muoversi in acqua, diventa serpente, però poi il serpente finisce sulla terra. Beh sì, a questo punto sì, e diciamo che però all'inizio c'erano sia varani terrestri come quelli che conosciamo oggi che varani acquatici. Semiacquatici, sì. Hanno trasformato le zampe lentamente in palette natatorie, cioè zampe palmate per nuotare meglio. Poi alcuni di questi, non tutti ovviamente, alcuni varani hanno continuato a vivere negli ambienti fluvio-lacustri, quindi anche sulla terraferma. Altri man mano si sono trasformati in animali più allungati e con arti più corti, meno sviluppati, e man mano li hanno persi. Poi alcuni di questi animali diventati serpenti marini hanno riconquistato, tra virgolette, le terre emerse. Quindi questo dimostra quanto effettivamente i meccanismi evolutivi siano molto complessi. Quello che è un vantaggio poi a un certo momento può diventare anche uno svantaggio, ma ormai l'animale è arrivato sulla terra e conquista un suo spazio. Sì, evidentemente la migrazione temporanea, verso gli ambienti acquatici era dovuta ad una maggiore disponibilità di cibo, ambienti, nicchie ecologiche libere in quel periodo geologico. Grazie Dal Sasso per i suoi chiarimenti. A voi. Dunque lui, Anatoly Kotlobay, prendeva martellate per testarlo del combustibile per razzi. Lo faceva in America, ma lui era una spia russa. Adesso allora andiamo con ordine e ascoltiamo Maurizio Melis che recensisce un articolo molto interessante uscito sull'ultimo numero delle Scienze. 1, 2, 3 colpi di martello e poi un botto. Più o meno come l'esplosione di un mortaretto. Anatoly Kotlobay, in arte Anatol Kotlobi, si divertiva così a testare il combustibile dei missili balistici intercontinentali. Nel laboratorio di ricerca sui combustibili solidi della Thiokol Chemical Company in New Jersey. Lavorava ad un progetto segreto considerato di importanza strategica dal governo degli Stati Uniti, in quanto parte di un più ampio programma di armamenti volto a colmare il cosiddetto gap missilistico, ovvero la superiorità tecnologica missilistica sovietica che si sarebbe poi rivelata un mito, ma che dopo il lancio dello Sputnik nel 1957 preoccupò a lungo l'America. Anatol Kotlobi era una spia russa. Catturato dalle truppe tedesche quando l'Armata Rossa era in rotta durante la Seconda Guerra Mondiale, era stato costretto a una drammatica prigionia in un campo di concentramento tedesco. Con la prospettiva di finire poi in un gulag sovietico, una volta libero nel 1945, emigrò infine in America, dove riuscì a laurearsi in chimica e superò tutti i controlli generici e di sicurezza dell'FBI. Evidentemente senza sfigurare nemmeno con il KGB, per cui Kotlobi era Cook, il cuoco. Ma torniamo al laboratorio. I botti causati dalle martellate di Kotlobi erano alquanto sgraditi. Generalmente le esplosioni erano infatti associate agli incidenti, e ce ne furono moltissimi. In un articolo apparso sulle Scienze di marzo, Joseph Castellaro, che a quel tempo era suo collega, ricorda quando una siringa era esplosa mentre iniettava pochi microlitri di liquido, solo a causa della frizione del pistone dentro la siringa. Il progetto a cui Kotlobi e Castellaro lavoravano insieme consisteva infatti nel progettare composti estremamente ricchi di fluoro, molto instabili e pericolosi. La tecnologia dei primi razzi era basata sui combustibili liquidi. Il razzo ospitava due grandi serbatoi criogenici, per esempio idrogeno e ossigeno. I due componenti venivano miscelati e accesi, dando luogo alla combustione, che forniva l'effetto propulsivo. La reazione era controllabile e anche interrompibile facilmente, interrompendo l'afflusso di carburante, ma richiedeva lunghi e complessi preparativi prima del lancio. Il Pentagono decise allora di impegnarsi sui combustibili solidi. Questi sono una miscela appunto solida di combustibile e comburente che viene sagomata, un po' come una candela, in blocco con la forma del razzo, e scavata però all'interno, dove brucia una volta accesa fino a consumarsi completamente. Una volta attivato il razzo non c'è modo di spegnerlo, ma può essere lanciato in pochi secondi, un vantaggio strategico decisivo per questo tipo di armi. Ebbene, il cuoco nel 1964 fu improvvisamente arrestato dall'FBI e nessuno dei colleghi lo rivide più. Rilasciato quasi subito perché non c'erano prove sufficienti, fuggì con la moglie a Mosca prima che le prove le trovassero. Ma la situazione che trovò non gli piacque per nulla e poiché criticava apertamente il regime fu arrestato con una scusa e condannato a 8 anni di reclusione. Oggi Kotlobay vive da qualche parte in Russia con la moglie. E gli studi a cui ha partecipato, per un paradossale gioco del destino, trovano applicazione nella ricerca contro il cancro. Questa puntata di Mebius finisce qua. Buona serata a tutti, a tutte e arrivederci alla prossima settimana. Radio 24 e Fondazione Sigma Tau vi hanno presentato Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.